sere sotto quel fanale, presto la caserma ti stava ad aspettare. Anche stasera aspetterò e tutto il mondo scorderò. Con te Lili Marlene, con te Lili Marlene. Dammi una rosa da tenere sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi Lili Marlene, a chi Lili Marlene. Trombettiere, stasera non suonare, una volta ancora la voglio salutare. Addio piccina dolce amor, ti porterò per sempre in cuor. Con me Lili Marlene, con me. Quando nel fango debbo camminar, sotto il mio bottino mi sento vacillar. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te Lili Marlene. A te Lili Marlene. Chiudo gli occhi, il viso tuo m'appar, come quella sera nel cerchio del fanar. Tutte le notti sogno allora di ritornar, di riposar. Con te Lili Marlene, con te Lili Marlene.